Bentornati a Pillole d'Europa, bentornati ai radioascoltatori di CRM. Oggi siamo in compagnia di Gian Maria Uggias, parlamentare europeo eletto in Sardegna, circoscrizione in cui è compresa anche Sardegna-Sicilia. La Sicilia, ecco, fa bene a correggermi, me lo stavo dicendo. E, tra l'altro, è un grido ospite di CRM, è già stato con noi nel mese di luglio, credo, a parlare di altri argomenti che riguardavano entrambi le regioni. E oggi invece affrontiamo un tema fresco, uscito in queste ore dal Parlamento europeo, che riguarda gli slot. Infatti Gian Maria Uggias è relatore di un provvedimento approvato dal Parlamento che di fatto, con un paio di virgolette però, liberalizza il commercio degli slot. In che modo? Più che liberalizzarli, li rende legittimi, nel senso che noi abbiamo assistito ad una realtà nella quale c'era un divieto di compravendita degli slot, però sappiamo di situazioni nelle quali questo era successo e tollerato dalle autorità. Per essere esatti, esisteva un unico punto, che in Inghilterra, Heathrow, dove tale commercio era liberalizzato, o meglio, legittimato, non è che fosse, era ritenuto legittimo. Adesso si disciplina e quindi si autorizza la possibilità di cessione tra compagnia e compagnia degli slot, che sono beni immateriali a funzione pubblica che hanno un valore e che quindi può essere scambiato, seppure non con un intento speculativo, tra le compagnie. Ecco, questa definizione di beni immateriali, no? Entra di fatto di diritto nella legislazione europea grazie a un suo emendamento approvato sempre all'interno di questo... Esattamente, c'era stata la previsione già all'interno del mio dossier, che però era stata rigettata in commissione. Io l'ho ripresentata al voto dell'Aula e credo grazie alla sensibilità riformatrice delle parti più attente ai diritti dei cittadini del Parlamento europeo, l'emendamento è passato con una grande maggioranza. Questo vuol dire, insomma, che vengono tutelati i cittadini, spiegava, esatto, in conferenza stampa. Esatto, perché praticamente intanto diciamo che mancava una definizione giuridica, per cui si stava andando quasi per prassi, che era una prassi che aveva origine dal fatto che le compagnie di bandiera nazionali avessero il dominio, il predominio di tutti gli slot. Quando le compagnie non sono state più un'unica cosa con lo Stato, si sono portate dietro tutta una serie di privilegi, come la conservazione storica degli slot stessi, ma hanno sempre messo al centro dell'assegnazione gli interessi delle compagnie. Oggi, con questa definizione, si dice appunto che le bande orarie, ovvero gli slot, sono dei beni immateriali di pubblica utilità, esattamente, che hanno una funzione di pubblica utilità, che vengono assegnati nell'interesse dei cittadini, degli stati membri, delle strutture aeroportuali e dei vettori aerei. Ricordiamolo per i nostri radioascoltatori, l'importanza di uno slot: che una compagnia aerea, come per esempio la compagnia di bandiera Alitalia, non può atterrare ad Olbia o a Palermo se non ha acquistato uno slot, quindi diciamo un accesso. Sì, diciamo che parliamo degli aeroporti maggiormente condizionati e congestionati. Parliamo dei grandi aeroporti in generale. Certamente non si può pensare di arrivare in una struttura aeroportuale, parliamo di Francoforte piuttosto che Linate, piuttosto che Fiumicino, e pensare di trovare in quella fascia a disposizione la pista, a disposizione i servizi antincendio, a disposizione il servizio a terra. Ecco, la banda oraria è l'assegnazione in una determinata fascia oraria di tutti i servizi aeroportuali a disposizione di un vettore aereo. Quindi sono slot, sono fasce che hanno un valore e che vengono riconosciute ad un determinato soggetto. Lei ha utilizzato il termine valore, e quando si parla di beni che hanno un valore, hanno un mercato, creano business, e quando ci si addentra in queste situazioni si muovono interessi importanti e quindi, esatto, si muovono muovono le cosiddette lobby. Ecco, lei ha sentito la pressione della lobby nel portare avanti questo provvedimento? Io non l'ho sentita poco, l'ho sentita tantissimo, nel senso che davanti al mio ufficio c'era la fila dei lobbisti per poter legittimamente parlare, per potersi confrontare. Credo di aver risolto il problema spostando il luogo del confronto non all'interno di un ufficio ma in confronti pubblici. Abbiamo fatto due hearing molto approfonditi dove diversi soggetti, portatori di interessi, dico legittimi perché l'industria aeronautica è portatrice di un grande interesse, gli aeroporti, i soggetti aeroportuali sono portatori di un altro interesse e ci si è confrontati in quella sede. Ecco, credo che sia proprio questo il modo, confronto nella massima trasparenza e nell'ottica di un interesse generale. Solo così si riesce a contemperare i diversi interessi ed è per quello che l'approvazione della definizione ci dice che vanno contemperati quei quattro interessi dei quali stavamo dicendo prima. Però non è sufficiente, ecco, forse voleva anche dire questo lei, arrivare a dire sono legittime le transazioni, bisogna accompagnarle da determinate caratteristiche procedurali e qui noi abbiamo inserito delle regole proprio che vanno improntate alla massima trasparenza, chiedendo allora intanto che la cessione non possa essere fatta a fini meramente speculativi, quindi non può essere acquisito un diritto storico e ceduto immediatamente, deve passare almeno un periodo di tempo, almeno una stagione aeronautica. Diciamo sempre a favore dei nostri radioascoltatori che le stagioni sono due, esatto. Stagione estiva o invernale, distinguiamolo così più facilmente, di sei mesi, e che lo slot si perde se non c'è un utilizzo del 20%. Allora, c'è una tolleranza del 20%, se si supera questo 20% in una serie di 5 nell'ambito della stagione aeronautica si perde il diritto. Detto in altri termini, se si mantengono 5 voli con una percentuale di fallanza del 20%, si mantiene lo slot per la stagione successiva. Invece con questo tipo di provvedimento non consentite più alle compagnie aeree di non volare per una settimana non consecutiva. Cioè, mi spiego meglio, le compagnie aeree dovrebbe, forse questa è l'intenzione e poi non si è arrivato. Questa era il testo della commissione riproposto da me in un emendamento che però purtroppo non è stato approvato, quindi noi chiedevamo che al termine attuale che dice 5 voli regolari, fatti con regolarità, noi chiedevamo di sostituire consecutivi, quindi è prevista ancora la regolarità che è tipica del regime vigente. Vabbè, ci si arriverà prima o poi, ecco, passo dopo passo. Io credo che siano stati fatti dei passi avanti molto significativi. Le posso dire questo, che nel momento in cui la Commissione ha approvato la comunicazione si è scatenata una guerra di resistenza, cioè di conservazione rispetto al regime attuale. Gradualmente, piano piano, con il ragionamento, col mettere davanti innanzitutto gli interessi dei cittadini, le regole, la disciplina, si è riuscita a ottenere questo risultato. Sì, perché ha dovuto contrastare, lo diceva anche nel corso di un incontro con i giornalisti, non solo le lobby delle compagnie aeree, ma anche le lobby dei territori e delle regioni come l'Austria e la Germania. Sì, questo per nel mio dossier. Il mio dossier sta all'interno di un pacchetto costituito da tre dossier. Il mio, che è appunto quello degli slot, quello sul rumore del noise e quello sui servizi a terra. Ecco, quello sui servizi a terra ha fatto scatenare le resistenze di un gruppo di parlamentari di nazionalità tedesca e austriaca, motivato dal fatto che gli effetti sull'aeroporto di Francoforte sarebbero stati di una liberalizzazione, a loro dire, eccessiva e non di tutela dei diritti dei lavoratori che faceva meritare la soppressione, la bocciatura del dossier. Che questa parte è stata rimandata in commissione. Esatto. È stata rimandata in commissione mentre hai avuto il via libera il dossier che riguardava la protezione dei residenti dai rumori degli aerei e poi il dossier che regolarizza in maniera più efficiente gli slot. Per cronaca, diciamo che la risoluzione è stata approvata con 565 voti a favore, 69 contrari e 26 astensioni. Quindi, una grandissima maggioranza. Un provvedimento che è stato abbastanza digerito dal Parlamento e fatto suo. Questo, diciamo, con grande soddisfazione. Ha sentito anche il Presidente del Parlamento che, insomma, che le faceva gli auguri per come è stato portato a termine l'intero percorso del suo dossier. Certo. Tornando a parlare quindi di in sintesi, ecco, di questo dossier, sostanzialmente quindi negli aeroporti ci potrà essere un aumento del traffico aereo. Esatto. Con questa apertura del secondo mercato, del mercato parallelo degli slot, quindi se non vengono utilizzati le compagnie potranno le compagnie o chi credo che siano i coordinatori degli aeroporti, come prevede il suo provvedimento, potranno affidarle ad altre compagnie, potrà essere incrementato il traffico aereo. Esatto, anche perché vengono introdotti altri aspetti nel regolamento, come quello che sanziona i bad users, cioè coloro che usano male gli slot assegnati, applicando delle sanzioni e comportando quindi la possibilità che una migliore disciplina, una regolamentazione più trasparente, più puntuale, porti a un miglior utilizzo delle strutture aeroportuali, perché la scommessa è questa: siccome da qui al 2030 è previsto il raddoppio del traffico aereo, dobbiamo avere, visto che non ci sono risorse per fare nuovi aeroporti e nuove piste, sia risorse economiche sia risorse di territorio, che sono anche quelle un bene prezioso da usare con cautela, si usa meglio lo strumento che regolamenta l'utilizzo degli slot, che sono un po' come il battito di un cuore e che regola la funzione dell'organismo. Ecco, quindi l'Europa, diciamo, arriva con una risposta pronta all'aumento del traffico aereo che ci sarà nei prossimi anni con questo provvedimento. Bene, approfitto della sua presenza perché lei si occupa anche di fondi strutturali, strutturali che sono particolarmente appetibili delle regioni del sud, delle regioni meridionali dell'Europa, come la Sicilia, come la Sardegna, che sono stati per anni considerate regioni obiettivo 1. Sì. Nel bilancio in discussione per i prossimi 7 anni, 2014-2020, ecco, quali sono le risorse che verranno garantite a queste regioni, se ce ne saranno? No, ci saranno o verranno garantite le risorse a seconda della categoria nella quale la singola regione verrà inserita, verranno distribuite in proporzione. Cioè, da questo punto di vista, una prima novità assoluta, perché rispetto ad una bipartizione attuale, la classica obiettivo 1 e obiettivo 2 delle regioni, che nell'ultimo periodo erano le regioni nella zona convergenza e nella zona competitività, quest'ultima quella più ricca, al di sopra dello 0,75% del PIL medio europeo, viene introdotta una terza fascia, quindi abbiamo tre zone, tre fasce per meglio dire, viene inserita una categoria intermedia che sta tra lo 0,75 e lo 0,90 del PIL medio europeo. Quindi, a seconda, dicevo, della distribuzione in queste zone, ci saranno determinate caratteristiche. Ma è una grande opportunità che l'Europa mette a disposizione. Penso che sarà forse l'ultima volta che risorse così consistenti verranno messe a disposizione delle regioni, perché la crisi del sistema economico mondiale, la rivisitazione delle categorie di spesa che oggi, va detto, per il 35-40% riguardano la politica agricola comunitaria e quindi premiano soltanto maggiormente, anzi premiano maggiormente alcune regioni, alcuni stati membri, a discapito di altri, quelli che oggi potremmo dire con la tripla A, che sono puntati più verso investimenti sull'innovazione, sulla tecnologia e non sull'agricoltura, certamente, stanno facendo pressione perché ci sia una riduzione di questi fondi per la PAC. Esattamente. Quindi per quest'anno penso che ci sarà entro il mese, nel primo trimestre, una definizione del quadro finanziario pluriennale che prevederà delle riduzioni. Oggi si parla di una proposta del Consiglio che va un po' intorno al 10%, una proposta della Commissione che sta intorno al 5% e il Parlamento che si attesta rispetto alla proposta originaria perché vorrebbe mantenere tutte le richieste fatte di dotazione. Ma queste risorse non è sufficiente averle allocate, cioè averne la disponibilità. Bisogna poi spenderle ed ecco qui si perdono. Qua, esattamente, qua casca l'asino per rimanere in materia di agricoltura e di allevamento. Gli asini sono una bestia bellissima, preziosissima. Guardi, in un piccolo centro delle Madonie, a Castelbuono, sì, vicino Cefalù, a pochi chilometri da Palermo, gli asini adesso sono stati rivalutati e sono stati sostituiti per il servizio di raccolta dei rifiuti. Ma io lo dicevo senza ironia, è un animale praticamente perfetto l'asino, che è stato utilizzato e può essere utilizzato tantissimo adesso a diversi fini. E non certamente alimentari, lo dico da animalista. Da animalista anche il Parlamento di cui fa parte anche in questi giorni sta portando avanti una risoluzione, credo, per il trasporto degli animali. Esattamente, più rispettoso dei diritti degli animali, con un limite di tempo e con condizioni migliori, esattamente. Tornando al discorso dell'agricoltura, qui ci saranno fondi, bisogna essere pronti a gestire questi fondi in maniera differente da come si sta facendo nel periodo in corso. Questo è l'auspicio con cui chiudiamo questo appuntamento da Strasburgo, e Pillole d'Europa, appuntamento per un prossimo incontro con l'onorevole Uggias, e ci farà il bilancio dei nuovi provvedimenti che porterà avanti qui all'interno del Parlamento Europeo. Vi ringrazio e a presto. Arrivederci.